So we say may you be safe. Quindi noi diciamo che tu possa essere al sicuro. Healthy and happy. Tu possa essere in buona salute e felice. And to live contented. Che tu possa vivere appagato. And in harmony with the world. In armonia col mondo. Yeah? So may you be safe, well and happy. Che tu possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. And may you live contented. May you live contented and in harmony with the world. Che tu possa vivere appagato e in armonia col mondo. So we can bring to mind people who've helped us in our lives. Possiamo portare alla nostra mente le persone che ci hanno aiutati nella nostra vita. We can bring to mind those who are near and dear to us. Portiamo alla mente le persone che ci sono vicine, le persone care. We can bring to mind friends, people at work, whomever we wish. Portiamo alla mente gli amici, i nostri colleghi di lavoro. Chiunque vogliamo. We can bring to mind neutral people, people we see but don't know, like some neighbors. Portiamo alla mente le persone neutre, persone che vediamo ma che magari non conosciamo, come dei vicini di casa. And we can turn our goodwill towards ourselves. E possiamo rivolgere questo stato di benevolenza a noi stessi. We can now relocate, we can now offer our goodwill to each other. Adesso possiamo offrire la nostra benevolenza gli uni agli altri. We can relocate to where we live, to our neighbors, neighborhood, town or city. Possiamo spostarci con la nostra mente al luogo in cui viviamo, nel nostro quartiere, nella nostra famiglia, nella nostra città. And from there to all the people in our country. E da lì possiamo spostarci e rivolgere benevolenza a tutte le persone nel nostro paese. To all the peoples of Europe. A tutti i popoli dell'Europa. And to all people on earth. E a tutte le persone sulla terra. And finally to all beings in all directions. e infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. And we draw our little practice to an end with a chant. Possiamo portare a conclusione la nostra piccola pratica con una recitazione. It means may all beings be happy. Che significa che tutti gli esseri possano essere felici. Sabbe satta sukhita hontu 3 times and sadhu, which means well done, 3 times. Sabbe satta sukhita hontu 3 volte. E poi sadu, sadu, sadu 3 volte, che vuol dire ben fatto. Sabbe satta sukhita hontu. Sabbe satta sukhita hontu. Sabbe satta sukhita hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good. Should we take a seat for a moment? Sediamo ancora per un attimo. So there's some time to take in the evening air. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo per assorbire un po' dell'aria serale. And to practice that abiding in the present moment. E per praticare questo dimorare nel momento presente. So you're just sitting within yourself receiving. Quindi è come se foste seduti dentro voi stessi, state semplicemente ricevendo. Sì. It's very difficult for us to stop doing something. È molto difficile per noi smettere di fare qualcosa. And then when you begin to make yourself ready for bed. Poi cominciate a essere pronti per andare a letto. So really take your time. Prendetevi il vostro tempo. And make every action deliberate. Fate in modo che qualsiasi azione facciate sia intenzionale. So when you're opening the door, open the door. Yeah. Quando aprite la porta, state aprendo la porta. Don't let your mind already be in the room and you discover your body there. Non fate in modo che la vostra mente sia già dentro la stanza per poi scoprire che il vostro corpo poi è lì. When you're brushing your teeth, taste the toothpaste. Quando vi spazzolate i denti, sentite il gusto del dentifricio. And you wonder why you bought it. E poi chiedetevi perché l'ho comprato. When you're finally in bed. Quando alla fine vi trovate nel letto. So to bring the mind to a stillness. Per portare la mente in uno stato di quiete. Either just feel the breath in the body. O cercate di sentire semplicemente il respiro nel corpo. But not to investigate, like we were doing with Vipassana, just to feel it. Ma senza mettere questo atteggiamento investigativo come facciamo nella Vipassana, ma semplicemente percepitelo, sentitelo. Or you can practice the metta. Oppure potete fare questa pratica di metta. But make it very simple. Però tenetela molto semplice. One or two blessings to yourself. Una o due benedizioni verso voi stessi. May I be safe and happy. Che possa essere al sicuro, felice. And towards somebody whom you have no problems with. E poi scegliete una persona verso la quale non avete dei particolari problemi. And if there is no one, somebody you have only small problems. E se non esiste nessuno con queste caratteristiche, scegliete qualcuno con una persona con la quale avete solo pochi problemi. And then to all beings. E poi lo allargate e lo offrite a tutti gli esseri. So 1, 2, 3. Quindi è solo 1, 2, 3. The purpose of this is to create a substrate in our hearts as we go to sleep, you see. E lo scopo di questo è creare una sorta di substrato nel nostro cuore man mano che ci addormentiamo. And this allows us to have very peaceful sleep, very peaceful. Questo ci permette di avere un sonno molto pacificato, molto tranquillo. If you've come with some unresolved problems from daily life. Se siete arrivati a questo ritiro con dei problemi non risolti dalla vostra vita quotidiana, some concerns about work, about relationships and so on. Preoccupazioni di lavoro, di relazioni, così via. So it's a good thing to perhaps write these down, you see. Potreste, per esempio, scriverli. And then to remind yourself that while you're here you can do nothing about this. E poi ricordate voi stessi che finché siete qui non potete farci nulla. And maybe at the end of the retreat all these problems will have disappeared. E forse alla fine del ritiro tutti questi problemi saranno scomparsi. So we just put them to the side. You see, we put the little note to the side or in a bag. Li mettiamo da parte, mettiamo questo biglietto da parte o in un sacchetto. And when the end of the retreat we can pick it up and begin to worry again. E poi alla fine del ritiro possiamo riprendercelo e ricominciare a preoccuparci. In this way we stop the mind from chewing on an old problem. In questo modo possiamo impedire alla mente di continuare a masticare questo vecchio problema. And finally, of course, before you fall asleep, a very fierce determination to wake with the bell. E poi alla fine, prima proprio di addormentarvi, questa forte determinazione di svegliarvi con la campana. May I wish you a peaceful night. Vi auguro una notte pacifica.